Cari fratelli e sorelle, con l'incontro di oggi vorrei concludere la presentazione della figura di Sant'Agostino. Dopo esserci soffermati sulla sua vita, sulle opere, su alcuni aspetti del suo pensiero, oggi vorrei ritornare sulla sua vicenda interiore, che ne ha fatto uno dei più grandi convertiti della storia cristiana. A questa sua esperienza ho dedicato in particolare la mia riflessione durante il pellegrinaggio che ho compiuto a Pavia l'anno scorso per venerare le spoglie mortali di questo padre della Chiesa. In questo modo ho voluto esprimere a lui l'omaggio di tutta la Chiesa cattolica, ma anche rendere visibile la mia personale devozione e riconoscenza nei confronti di una figura alla quale mi sento molto legato per la parte che ha avuto nella mia vita di teologo, di sacerdote, di pastore, e così volevo esprimere la mia gratitudine. Ancora oggi è possibile ripercorrere la vicenda di Sant'Agostino grazie soprattutto alle confessiones scritte a lode di Dio e che sono all'origine di una delle forme letterarie più specifiche dell'Occidente, l'autobiografia, cioè l'espressione personale della coscienza di sé. Ebbene, chiunque avvicini questo libro straordinario e affascinante, ancora oggi molto letto, si accorge facilmente come la conversione di Agostino non sia stata improvvisa né pienamente realizzata fin dall'inizio, ma possa essere definita piuttosto come un vero e proprio cammino che resta un modello per ciascuno di noi. Questo itinerario culminò certamente con la conversione, poi con il battesimo, ma non si concluse in quella veglia pasquale dell'anno 387, quando a Milano il rettore africano venne battezzato dal vescovo Ambrogio. Il cammino di conversione di Agostino infatti continuò umilmente sino alla fine della sua vita, tanto che si può veramente dire che le sue diverse tappe, e mi sembra se ne possono distinguere facilmente tre, siano una unica grande conversione. Cominciamo con la prima. Sant'Agostino è stato un ricercatore appassionato della verità dall'inizio e lo è rimasto per tutta la sua vita. La prima tappa della sua conversione si è realizzata nel progressivo avvicinamento al cristianesimo. Agostino aveva ricevuto dalla madre Monica, alla quale restò sempre legatissimo, un'educazione cristiana. E benché avesse vissuto durante gli anni giovanili una vita sregolata, sempre avvertì un'attrazione profonda per Cristo, avendo bevuto, così dice, l'amore per il nome del Signore con il latte materno. Ma anche la filosofia, soprattutto quella d'impronta platonica, aveva contribuito ad avvicinarlo ulteriormente a Cristo, manifestandogli l'esistenza del Logos, della ragione creatrice. I libri dei filosofi gli hanno indicato che c'è la ragione dalla quale viene poi tutto il mondo, ma non gli indicavano come raggiungere questo Logos che sembrava così lontano. E soltanto la lettura dell'epistolare di San Paolo nella fede della Chiesa Cattolica gli rivelò pienamente la verità. Questa esperienza fu sintetizzata da Agostino in una delle pagine più famose delle Confessiones e gli racconta che nel tormento delle sue riflessioni, ritiratosi in un giardino, udì all'improvviso una voce infantile che ripeteva una cantilena mai udita prima: tolle lecce, prendi lecce. Si ricordò allora della conversione di Antonio, padre del monachesimo, e con premura tornò al codice paolino che aveva poco prima tra le mani, lo aprì e lo sguardo li cadde sul passo dell'epistola ai Romani, dove l'apostolo esorta ad abbandonare le opere della carne e a rivestirsi di Cristo. E ha capito che questa parola in questo momento era detta personalmente a lui. Veniva da Dio tramite l'apostolo e gli indicava cosa fare in questo momento. Così sentì dileguarsi le tenebre del dubbio e si ritrova finalmente libero di donarsi interamente a Cristo. Avevo convertito a te il mio essere, egli commenta. Fu questa la prima e decisiva conversione. A questa tappa fondamentale del suo lungo cammino, il rettore africano arrivò grazie alla sua passione per l'uomo e per la verità, passione che lo portò a cercare Dio, grande, inaccessibile. E la cristologia, la fede in Cristo, gli ha fatto capire che il Dio apparentemente così lontano non è lontano. Si è fatto vicino a noi, divenendo uno di noi. In questo senso la fede in Cristo ha portato a compimento la lunga ricerca sul cammino della verità. Solo il Dio fattosi toccabile, uno di noi, era finalmente un Dio al quale si può pregare, per il quale, con il quale si può vivere. Questa è infatti una via da percorrere con coraggio e nello stesso tempo con umiltà, nell'apertura a una purificazione permanente di cui ognuno di noi ha sempre bisogno. Ma con questa, come ho detto, veglia pasquale del 387, il cammino di Agostino non era concluso. Tornato in Africa e fondato un piccolo monastero, vi si ritirò con pochi amici per dedicarsi alla vita contemplativa e di studio. Questo era il suo sogno di vita adesso: vivere totalmente per la verità, con la verità, nell'amicizia di Cristo che è la verità. Un bel sogno che durò 3 anni, fino a quando egli non venne, contro la sua volontà, consacrato sacerdote a Ippona e destinato a servire i fedeli, continuando sì a vivere con Cristo e per Cristo, ma a servizio di tutti. Egli era molto difficile nell'inizio, ma ha capito che solo vivendo per gli altri e non solo per la sua privata contemplazione poteva realmente vivere con Cristo e per Cristo. Ha rinunciato a una vita solo di meditazione, imparò spesso con difficoltà, giorno per giorno, a mettere a disposizione il frutto della sua intelligenza a vantaggio degli altri, comunicare la sua visione, la sua fede alla gente semplice e vivere così per la gente comune in quella città che divenne la sua, svolgendo senza stancarsi un'attività generosa e gravosa che così descrive in uno dei suoi bellissimi sermoni: continuamente predicare, discutere, riprendere, edificare, essere a disposizione di tutti è un incente carico, un grande peso, un'immane fatica, ma lo prende per sé capendo che proprio così è più vicino a Cristo. E capire che servire agli altri con semplicità e umiltà giorno per giorno era la sua vera seconda conversione. E c'è finalmente un'ultima tappa del cammino agostiniano, che possiamo chiamare una terza conversione, quella che lo portò ogni giorno della sua vita a chiedere perdono a Dio. Inizialmente aveva pensato, una volta battezzato, alla vita comune con Cristo nei sacramenti, nella celebrazione dell'Eucaristia, sarebbe arrivato alla vita del sermone della montagna, alla perfezione donata nel battesimo e riconfermata nell'Eucaristia. Alla fine della sua vita ha capito e scritto questo che aveva detto nelle mie prime prediche sul sermone della montagna, che adesso noi da cristiani viviamo questo ideale in permanenza: ho sbagliato. Solo Cristo stesso compie realmente e completamente il sermone della montagna. Noi abbiamo sempre bisogno di essere lavati da Cristo che ci lava i piedi, di rinnovati di un giorno permanente di nuova conversione. Fino alla fine abbiamo bisogno di questa umiltà che riconosce che siamo peccatori in cammino finché il Signore ci dà la mano definitivamente e ci guida alla vita eterna. Con questa ultima umiltà è morto, con questa ultima umiltà ha vissuto, e così proprio in questa umiltà dell'uomo che sa di non essere perfetto ma di aver bisogno dell'amore perdonante di Cristo è divenuto un grande santo e un esempio per noi tutti. Convertito a Cristo, che è verità e amore, Agostino lo ha seguito per tutta la vita ed è un modello per ogni essere umano, per noi tutti, in cerca di Dio. Per questo ho voluto concludere il mio pellegrinaggio a Pavia l'anno scorso, riconsegnando idealmente alla Chiesa e al mondo, davanti alla tomba di questo grande innamorato di Dio, la mia prima enciclica intitolata Deus Caritas Est. Questa infatti molto deve soprattutto nella sua prima parte al pensiero di Sant'Agostino. Anche oggi, come al suo tempo, l'umanità ha bisogno di conoscere e soprattutto di vivere questa realtà fondamentale. Dio è amore e l'incontro con Lui è la sola risposta alle inquietudini del nostro cuore. Un cuore che è abitato dalla speranza, forse ancora oscura e inconsapevole in molti nostri contemporanei, ma che per noi cristiani apre già oggi al futuro, tanto che San Paolo ha scritto che nella speranza siamo stati salvati. Alla speranza ho voluto dedicare la mia seconda enciclica, Spe Salvi, e anch'essa è largamente debitrice nei confronti di Agostino e del suo incontro con Dio. In un bellissimo testo, Sant'Agostino definisce la preghiera come espressione del desiderio e afferma che Dio risponde allargando verso di Lui il nostro cuore. Da parte nostra dobbiamo purificare i nostri desideri e le nostre speranze per accogliere la dolcezza di Dio. Questa sola, infatti, aprendoci anche agli altri, ci salva. Preghiamo dunque che nella nostra vita ci sia ogni giorno concesso di seguire l'esempio di questo grande convertito, incontrando come Lui in ogni momento della nostra vita il Signore Gesù, l'unico Salvatore che ci salva, ci purifica e ci dà la vera gioia, la vera vita. Grazie.